Friuli nel mondo. 147esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sagra della Villotta 1965. Dalla terza sagra della Villotta, svoltasi a Villa Santina, sotto l'egida della Scuola Libera Friulana, vogliamo, cari radioascoltatori, trasmettervi un mazzetto di nuove villotte che compositori e parolieri friulani hanno creato per l'anno 1965 con sensibilità e con aderenza alla tradizione canora del Friuli. Di Tarcisio Todero, su parole di Guido Michelutti, ascoltate la villotta Mandi, eseguita dalla corale Tita Birchebner di Tapogliano e Nogaredo al Torre, diretta da Giovanni Famea. La stessa corale, diretta da Giovanni Famea, esegue Nostalgie furlane di Arturo Turco. Yeah. Il Von Innamorat di Giulio Moro su versi di Silva Florianini viene interpretata dal coro Giuseppe Peresson di Piano d'Arta, diretto da Fiorindo De Colle. Dallo stesso coro ascoltate la villotta Saint Tornaz di Tarcisio Todero su testo di Giuseppe Teodorico. Montagni, sport, sport, sport. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.